diverse, lingue sbagliate, niente dovuto, ogni volta lo so. Sono un uomo votato alla forza che userò per te, che userò per te. Non è ricordo di un'estate, qualche ora fuggita via, il mio concetto di spazio e di tempo lo infrangerò per te, lo infrangerò. Correrò per te.